Solo l'altro giorno stavo guardando un po' di porno, quando all'improvviso, per poco stavo ucciso. Sì, ubriaco, lo spinotto andava a fuoco, e quella scenetta un po' così scomparì senza un perché. Tosto chiamai il tecnico, lui venne nel mio attico, con la sua faccia sconsolata, mi disse una cazzata. Parlò di scheda madre e motivazioni ladre, mi diede un preventivo che per poco non svenivo. Per cambiare uno spinotto mi hai fatto andare a capo sotto, mannaggia. 100 euro sono tanti, porco zio, tutti tanti. Come devo fare 100 euro da trovare? Non potevo dargli stuzzini, mi dovevo troppi quattrini. Ho provato alla SNAI, ma là non vinci mai. Ho scommesso sui cavalli, nella lotta con i galli. Sono proprio disperato, ma la spugna non ho portato. Sento un tacco tipo tondo, mi è venuto in mente il nonno. Contrariato mi rispose, e mi sentì la sua ritorsione. Della sorella mi parlò, e poi mi cazziò. Tiene 30 anni ormai, 31 e compirai, mannaggia, mannaggia chi sei morto. Dove farò i pugnetti, spieni i soldi, macchinette, mannaggia, mannaggia chi sei morto. Sei proprio un vecchio di merda, senza soldi io come già fa. Sono solo un ragazzo, frustrato, a non tenere chi sarà. Quel bastardo di un tecnico ladro, abbiamo fatto la vita insieme, e ora come sparco il mio bene, senza aiuto. Per cambiare uno spinotto mi hai fatto andare a capo sotto, mannaggia, mannaggia, che pur 100 euro sono tanti, porco zio, tutti santi, mannaggia. Mannaggia chi è morto, devo fare un pugnetto, so passate giù un letto, mannaggia, mannaggia chi è morto. Se ho computer non mi fai, io so che abboscherai.